fatica, perché qualcuno si chiama ancora morto. Lui c'ha calata sotto una luna storta, in una guerra ad ognuno è nemico. New York ne magico, con mano c'ore e fuga, sai soccorre e chi sta sotto terra. Mille pensieri ti fanno arricciare la pelle, e a memoria chi si è perso in da sta storia. Anarchia per chi ha lasciato sangue a vita, rinde in mano sta stretta lo suona. A look forte, a look senza scurna, la libertà chi l'ha ancora capito. Sono nata a loro senza paura, m'hanno chiuso in de galera i pensieri, m'hanno fatto credere che umare non ero era. Sono nata a loro senza paura, cattone un lavoro, si chiama fatica, per coccrona si chiama ancora morta. Sono nata a loro senza paura, lobby anarchica, per natura, rade giuro ribelle caruto. Co sguardo verso l'aurora, o gagliardo che lotta e fatica, o poeta ve gente che muore, o poeta ve gente che muore, o poeta ve gente che muore, o poeta ve gente che muore, o poeta ve gente che muore.